viaggi assurdi che mi faccio in testa. Ho l'umore fragile di carta pesta. È sempre l'ultimo ogni sigaretta. Sempre di fretta ma il primo che aspetta. Voglio tutto e lascio quello che mi spetta. Ogni cosa addosso me la sento stretta. Lei che mi vuole però mi detesta. Di giorno sono il buono, di notte la bestia. Trattengo le lacrime, le nascondo lontano da te. Non fa male più niente. Che c'è di strano se ogni pensiero è grandine senza un riparo? Mi colpisce forte come fai te. Ho le nocche rotte solo per te. Quante notti sveglio a cercare te senza un riparo? Ci colpiamo forte, siamo Fight Club. Non so come curarti senza farti male, come chemioterapia per un terminale. Metto tutto a rischio, questo lo so fare. E mi ha fermato ubriaco la stradale. E tu ti incazzi perché non so vivere, non so ridere, non so decidere. E vivo ancora di speranze vuote. E ti prometto ancora che alzerò un milione. Pronto a rompermi tutto come un calciatore, solamente per darti una casa migliore. E poi ci pensi tu a riempirla d'amore, perché io non so trovare mai belle parole. Perdonami i peccati come il Padre nostro. Me lo domando anch'io se sono quello giusto. E mi dispiace se a volte lo sembro, però non sono un mostro.